cambio stellina io. Cambio. Cambio. Stellina. E punto. Allora. Una sterlina inglese dovrebbe essere ad oggi 0,86 euro. Credo. 86 e 270.000 sterline quanto sono? Aspetta che forse ho sbagliato, aspetta, il convertitore di valuta te lo dico subito. Solo a prendere oggi. Allora, sì. Yeah. Allora, una sterlina è esattamente 0,8593. Quindi dimmi esattamente l'importo. 270.000. 270.000 sterline, anzi no, aspetta che sto facendo una cagata, un attimo. Allora, 270.000 sterline sono esattamente 314.211 euro. Sono andato male. Perché? Perché li ho vinto. Ma vai. Ma è come? Non ha visto, te ne parlo. Così, da nulla. Io sono contento, non contento, di più per te. Anche perché credo che chiunque ne abbia, se gli dovessero capitare così a capo, dove sia più che fortunato, debba essere più che contento, gli servono soprattutto in questo periodo. Esattamente così, al cambio poi, credo al cambio di oggi, aspetta, sì, al 12 febbraio, tasso di cambio 12 febbraio 2013 è 0,8593, quindi è meno di un euro, quindi 270.000, te lo ripeto, è 314.000 euro, 314.211 euro, 0,84 centesimi. Tu adesso degli 84 centesimi, quando ci vediamo mi offro il caffè. Che tu mi hai voluto dire? Quanto costa che ho partecipato su internet? Mi è arrivata la vincita, poi io gli ho scritto tutta la storia, gli ho mandato la documentazione, mi hanno richiamato e mi hanno detto che la vincita praticamente è vera e tutto quanto, che devo mandare praticamente i documenti per verificare, una copia del documento per verificare l'autenticità della persona e rispondere al numero di telefono quando mi chiamano. Adesso che sia una cosa veritiera tu non lo so, però sembra una casa del mio telefono, quindi non penso che sia una cosa così. No, l'importante è che non ti chiedano soldi. Se ti chiedono soldi per darti la vincita è una fottitura, eh? No, non me l'hanno chiesto i soldi. Mi hanno chiesto solo la fotocopia del documento. Copia del documento ci può anche stare, però non si allarghino oltre. Aspetta, prendo il telefono che lo metto in carica un attimo. Faccio. Aspetta che carica il canale, il canale. No, non ce l'ho carico. Allora, in ciao. Ma aspetta, ti sto chiamando. Chi è là? No. Mi stavi dicendo? Che praticamente... ho trovato una persona che era inaffidabile, ha fatto un lavoro proprio di cavolo, tutte le mattonelle praticamente si sono rigonfiate, ho dovuto fare più fatica tutte le mattonelle, lavarle, cadere, rimettere qua, un casino, non tutto. Non ti dico lavoro, meno male che era ancora fresco, non ha scelto, infatti siamo usciti a Twitter. Lo so, molti sono improvvisati, chi è che c'è nel canale? Chi cascio va il canale? Attimino. Mi devo allontanare un minuto, scusa. Vai, vai. Gianni. Oh, dimmi. Aspetta, non ti sento, vieni avanti di nuovo. Sì, stavo guardando questa macchina fotografica, niente male. La stanno vendendo a seconda mano. La conosci la Lumix? Lumix, sì, però non fa fuori Reflex, fa... come si chiamano quelle nuove, ma sai perché mi sono assentato? Hanno fischiato Crozza, cosa, questi valigiarle mi hanno detto di tutti i colori. Come mai? No, se ne stava andando via, l'ha fermato Fazio, come mai? Perché ha fatto politica in un momento dove effettivamente la politica non c'entra niente, poi Fazio si è tirato dietro tutta la greffa di quelli di sinistra, di Rai 3, aiuto. Ah, sto guardando, vabbè, questa macchina qua, Panasonic DMG-Z30, non è una reflex, ma diciamo che è un ibrido, là, chiamiamolo così, ibrido. Cioè, la reflex è la compatta. Sono delle belle macchine, c'hanno l'obiettivo Lecca. Sì, aspetta, però, adesso non mi ricordo, non mi sovviene, non si chiama... La Lumix, peraltro è buona e fa delle belle foto, però è molto standard. Lumix. Aspetta, te lo dico subito come si chiama. Lo so, ma non mi viene adesso, non mi viene il nome. È una bella macchina, veramente. Mi sa che per questo prezzo la posso anche prendere. Quanto è? 180 euro. Quindi il doppio e ti compri la reflex che c'ho io, che è una bomba. Ma devo spendere il doppio, ma... lo so, anche a me piacciono quelle, le stavo guardando l'altro giorno. Quello che mi roga anche è che abbia una macchina con tutti gli obiettivi, grand'angolo, tutto quanto, non poterla usare perché non è più... non vanno più. No, aspetta, allora, innanzitutto quelle macchine che stai dicendo tu, la Lumix è una Bridge, che non è né una Reflex né una digitale vera e propria, nel senso che è un ibrido, come ben hai detto. Il problema è che la Canon, ad esempio, ha tutta una serie di, una volta che compri il corpo macchina, ha una serie di anelli adattatori che ti permettono di usare qualsiasi tipo di obiettivo, quindi potresti riutilizzare quegli obiettivi analogici che hai. Però comprati, non li comprare cagate, che poi, ti ripeto, valgono quello che costano. E ma quegli anelli adattatori anche ti rubano luminosità. Che cose già provate, riprovate e via dicendo. Io ho un Vivitar come grand'angolo, è adattato alla mia macchina, con un proprio con un attacco, un anello adattatore, però gli rubo un po' di luminosità, dico la verità. Il bello è quello della Mamiya, lo zoom della Mamiya che costava 330 euro, me lo ricordo, 330.000 lire, me lo ricordo ancora. La macchina, il corpo macchina veniva 500.000 lire e diciamo l'avevo preso da Farella, me lo ricordo ancora, che la ditta stava quasi per fallire. Ha detto che stavano vendendo le ultime macchine e mi ha detto guarda che questa qui è una ditta che fa delle ultime macchine, sono quelle che usano i fotografi per intenderci nei matrimoni eccetera eccetera, e che però la ditta sta andando male, sta per chiudere, e che me la davo a un prezzo non penso più nuovo, perché dice che quella macchina che aveva sulle 700 euro quando praticamente la ditta andava alla grande, capito? 700 euro veniva, 700 mila lire euro. E niente, mi ha dato sempre delle buone soddisfazioni, se tu vieni a casa ti faccio vedere alcune foto che ho fatto a Manuela, le foto che ho fatto a Pitti, eccetera, eccetera. Sono bellissime, con quello zoom ho fatto una fotografia di Liliana, si è messa nella chiesa, non quella di Bavaria, quella che c'è qui giù, c'era tutto usilo innervato. E ho fatto una fotografia con lo zoom, ho preso in primo piano a lì, tutto il paese innervato, però un po' offuscato, e mi ho preso in primo piano a lì, e cazzo ti posso dire a 200 metri di distanza, te l'ho fatto in primo piano. So, guarda che non ti possono togliere luminosità, perché altro non sono che degli anelli adattatori, non hanno lenti dentro, cioè non c'è niente, quindi no. Boh, a me mi ha dato quell'impressione. Niente, c'è una macchina a casa che c'è la borsa a Fiorenza, c'è un po' quanto va, c'ho cross screen, filtri tutti i tipi, ma c'è un sacco di roba, mi rode, una volta l'ho portata a quel mercatino delle Pucci e mi ha detto che no, non c'è su internet, non è valutabile questa macchina. Cazzo, vanno le macchine che sono garage, che si di Blasica, che si tutte le Zenith, che vabbè, le Zenith sono anche macchine buone, perché io l'ho avuta, ma l'unica cosa che si sfascia è quella letta che c'è, che è presa la pellicola dietro, lo sportellino si spazza. Lo so, ma ti ripeto, guarda, ormai con meno di 500 euro ti compri una signora macchina fotografica. Adesso, è vero, perché noi ce l'abbiamo, noi avevamo una Canon. Non avevo di quelle compatte, ma era bellissima. C'aveva uno zoom di quelli elettronici che andava da solo, eccetera, eccetera. E non ha detto a Manuela, oggi non puoi portarsela in gita. Ho detto, Manuela, mi raccomando, mica costa un bellissimo di questa macchina. Allora, aveva 12 megapixel da allora, che le macchine fotografiche era la migliore che c'era di quella che abbiamo comprato, che è quella che costava di più. E non mi ha detto, Manuela gli è caduta in terra e l'è fasciata. Si può aggiustare sicuramente, è uscito l'obiettivo fuori, un casino. Beh, fatto sta che allora abbiamo deciso di comprarne un'altra, abbiamo preso questa qua che è della, come si chiama? È di quelle buone comunque, è quelle buone lo stesso, però la usano sempre Liliana, la usa quella, la usa l'altra, a me mi piace la macchina per la mia, mettermela in macchina quando vedo un falco fotografarlo, cioè i falchi che vedo io, tu non ne hai idea. Lo so, però lì bisogna essere veloci. Allora io una volta ne ho visto uno sopra, era sopra un coso, sopra un palo però di legno, che praticamente rimaneva piantato in terra, lui era proprio nella punta, sulla sorso di Bidriati li trovo sempre, quei falchettini. Sono fermato con la macchina, avevo la macchina fotografica appresso, ho preso la macchina fotografica e in fretta gli ho messo un grand'angolo e mi sono avvicinato un bel, non se ne è scappato, ho fatto la fotografia, poi come l'ho visto volare, trac, mi ha dato l'altro scatto, e l'ho fatto con le ali aperte in volo, troppo vecchio. Ma se no gli ho fatto un'altra molto bella, un'amica che si stava facendo la doccia al mare, sotto la doccia che c'è lì alla rotonda, eccetera, eccetera, e ha mosso i capelli lunghi e ha schizzato l'acqua, cazzo, l'ho fatto con gli schizzi dell'acqua, ma è troppo bello. Però lì ci vuole una velocità e devi essere molto fermo con la camera, assolutamente. Ma non c'era nessuno sul canale? C'era Gianni di, che era l'ultima, era sul 2, poi qui non ho trovato nessuno. Tanto io ti sto dicendo che io la mamma ce l'avevo e io aiutavo anche un'amica a fare i matrimoni, quindi No, ma della macchina fotografica non si è più avuto. Telecamera mi piace di meno. Mi piace, ma non troppo. La macchina fotografica, c'ho diappositore, facevo diapositive, facevo di tutto, tranne che sviluppare. Ma Leandro, un amico mio, sviluppava pure a casa sua, molte volte me ne facevo sviluppare da lui. Adesso è molto più facile imparare a usare una macchina fotografica perché vedi subito il risultato, capito? Al contrario, prima invece dovevi aspettare lo sviluppo, a seconda di come te lo sviluppavano, poi comunque avevano delle variazioni, i costi erano decisamente elevati. Bene, se usavo quelli con la Fuji, c'avevo uno sfondo di verde sempre, questo è appurato. E la pellicola Fuji mi faceva sempre questo sfondo verde che dava sul verde. Poi a seconda di quanto era vecchia la pellicola ottenevi risultati diversi, erano molte le varianti, cose che adesso non ci sono. E poi adesso puoi sceglierti, anche se tu le vuoi far sviluppare, metti la cosa, la scheda del coso, del macchinario che c'hanno loro, ti scegli le fotografie e via, e ti sviluppi quello che vuoi. Prima questo non veniva a pagarvi quello che facevi male e quello che facevi bene, quindi dovevi stare molto attento facendo, lì ero di quelli che mia moglie magari, io muoviti a fotografare, io regolando, dopo poco le facevo la foto e piaceva. Scusa un attimo, c'è una chiamata, un attimo, devo rispondere per forza alle... Un giorno che vedi te la faccio vedere tutta la mia attrezzatura, dovrei avere anche qualche pellicola ancora. Chi è là? Chi è? Sì, sono inconfondibile. Brodino. No, era Claudio. Lo so. Che ti stavo dicendo? Quindi sono andato perché non mi funzionava quel cacchio di sigaretta elettronica. Ho comprato il filtrino in un negozio, che non era quello, vabbè, dove ho comprato la sigaretta, perché non sono rimasto senza. Caricato e tutto quanto non tirava. Adesso sono tornato dove ho comprato la sigaretta e era proprio il filtrino che era difettoso. Come ha messo il suo, ha subito tirato. Ci ho preso un gusto particolare. Ah, sapore di torrone. Nocciole. Non te lo riconosco. Sento fino di fare una cosa, non riesco a concluderla. Claudio, ci sei? Magari la stagia. Ma nella frequenza monitor qualcuno si è ascoltato? No, non ho acceso niente. Ma tu mi hai detto che era per la monitor, perché 145 525 io ho metto. 525, 145 525, come se doppio quello devi sapere queste frequenze. Sì, metto quella ma non vedo mai su, prima c'erano, adesso non c'è più. Evidentemente non ne hanno voglia, aspetta un attimino, sto finendo di fare una cosa. Ma che sta crollando anche la frequenza radioamatoriale, boh. No, hai solo. Chi è? Giulio. Metti solo, ciao. Ciao, giù. Questa volta. No, hanno cambiato frequenza, hanno cambiato i veri motori. Allora, via. Sì. Prova 144-300, prova. L'altro giorno ero lì. Kappa. Hai fatto bene a dirmelo giù. Ma che è il mondo? Di solito se lo sentivi, magari quando facevo cose ascoltavo via e facevo anche piacere. Non so se hanno scelto quella come frequenza monitor, comunque l'altro giorno erano lì. Andava. Kappa. Questa voce di sonno è oppure stai male, sei raffreddato? Sottovoce, sto parlando sottovoce. No, c'è qualcuno addormentato vicino a te? No, c'è la televisione accesa. Kappa. Come stasera non siete entrati? Di solito ieri sera c'era il pianone, oggi non c'era nessuno, un cane morto non c'è. Ma io sono entrato presto, sono state le 4 circa, stavo parlando con Gianni che era in bara. conosci della stessa cosa, a me mi sentivo, a me non lo sentivo. Ho provato anche a attaccare l'amplificatore all'antenna, niente da fare. Non riusciva a copiarlo, ma Gianni Chiaramonti mai tre, perché non ha l'antenna come la tua, c'è un antennino, però a te ti sente, mi ha detto anche che c'avevi l'eco. Sì, no, a me mi sentivo bene, ma anche io sentivo lui benissimo, a Gianni lo sentivo benissimo, a quello della Maddalena che non sentivo, mentre lui mi ha sentito un po' di volte, quello della Maddalena, a momenti era, capito? Beh, vabbè, io qua non lo so, la Maddalena non lo so, però in Corsica ci sono arrivato, a Iaccio. E allora in Corsica ci arrivo dalla macchina tranquillamente, come andavo sempre tutti i giorni, quando c'era ai tempi di Corsica 1, ti ricordi? Da Corso da Quenza. Cap. Poi si era spostato a Calvi, si era spostato e lo sentivo anche lì, addirittura dalla macchina lo prendevo, tutti i giorni lo sentivo. Vabbè, ma prima, diciamo la prima, non c'era qui non è tanto uno sfilico giù, si arrivava con i portatili al vero, fatti un po'. Sì, in effetti è così, e mi ricordo già, a quei tempi io avevo il destino, ci avevo messo l'antennino sul parafango davanti, ci avevo messo, e con l'antennino addirittura arrivavo a vedere la Monte Leone, cosa che oggi ho. Infatti adesso c'è l'inquinamento atmosferico dei cellulari, tutti questi apparecchi che sono strani, anche spie, di questi apparecchi spie buoni per ascoltare, per fare, e ve ne sono pochi di così che noi non sappiamo nemmeno. Non c'è più spazio nell'etere. No, la moto mi ferma sul marciapiedi proprio a fianco alla Maladino, da me, e riuscivo a collegare Villanova a Monteleone, si può immaginare, ma di essi poi non se ne parla, quello per me era facilissimo, perché l'ho sempre collegato molto bene, ma di essi, ai tempi di cosa, di come si chiama, non mi ricordo, vabbè, non c'è mai capito. Biscolone. Sì, Biscolone, sì. Vabbè. Ottimo per la truppa. Lode. E sta terminando il lavoretto. Sta terminando il lavoretto e si è detto che voleva finirselo, perché se no non accavava più, se stavo sempre chiamando. È vero. È vero. È bello, ciao. Ciao Lucrezia. Stai ascoltando questo? Da poco fa. Stavo facendo due tiri al poker. Adesso basta. Io sono salito in cameretto perché stavo guardando la partita della Juventus che ha giocato con il Celtic, che ha vinto 3-0. Abbiamo visto su Facebook, l'hanno scritto, mi è beccato proprio al momento che stavo infilando le cuffie, allora mi è beccato proprio nel momento in cui mi stavo infilando le cuffie, ho detto allora tutto ok, qua siamo, interessante essere qua, poi si può fare di tutto, si conferma, interessante essere qua e dire qualcosa. Andiamo Giulio, come vai? La baracchina quest'ora. Dove è la te? Io lo so, vabbè, ti ascolto la notte. Non entro mai perché qui c'è la televisione. E dunque è di su. Stavo dicendo, sai, poi sono appena salito su, la piave sopra. E come ti ho detto, stavo guardando la Juventus. Praticamente è qualificata quasi, si può dire, perché c'è la partita in ritorno, no? Però 3-0 fatti fuori casa, perché la fuori casa è una garanzia grandissima per la qualificazione ai quarti di finale. Vabbè, Gianni, come va? Non ti sei guardato il festival di Sanremo? No, non me ne frega nulla. Detto chiaramente, l'ho visto tanti anni, ero... Ma poi da quando ho sentito tutte queste storie che ci sono dietro, i bisticci, le cose, boh, non la vedo più come una gara all'acqua di rose, dai. No, a me non mi piacciono più i cantanti che partecipano, tanto meno le canzoni, perché non ci sono per conto mio né canzoni né cantanti più, ma da parecchi anni già, non da adesso, qualcuno mi curio 10 anni con qualche canzone, ma di solito oggi non ci sono più poeti che sanno fare canzoni e cantanti che le sanno cantare come se non ce ne sono più per conto mio. Prima c'era De André che faceva certe canzoni, erano delle poesie quelle canzoni di André. I cantautori a me piacevano molto, un bel Battiato, De André, quel tipo di Lucio Battisti, tutti quelli, mi piacevano molto i cantautori a me. Sì, quelli erano bravi, in effetti quelli erano bravi, ma sono ormai da altri tempi, quindi purtroppo è così. Oggi le canzoni sono tutte pasticciate, non hanno senso, non hanno un minimo di poesia. Poi certi cantanti che sinceramente parlando, io cantanti da almeno 10 anni a questa parte non ne sento più, tutti gli altri sono sempre natori sui vocali e basta. Ci sono ancora i cantanti bravi, ma sono molto pochi, non si contano sulla punta delle dita, non è come prima. Prima spaziava molto più, gareggiava di più il fatto di cantare. Adesso sono proprio pochi quelli che a me piacciono. Piacciono i Modà, che sono molto bravi, come le parole che usano ti colpiscono, perché sono molto sentimentali, però colpiscono le parole che usano molto. E la musica mi piace di Modà. Sì, ma sono sempre canzoni, cioè sono sempre cantanti di prima, che sono i più bravi. Possiamo quasi morirmi, no? Non vanno per i miei gusti. Luca! Infatti, poi a secondo chi è? Ma i Modà sono mari già, giusto? So. Devono cantare di Asciare? Allora, 14, dopo domani esce il CD, lo devo comprare per spedire alla mia amica, ma dopo andiamo che qua non c'è, e lo devo spedire. Che fa regalino? Vabbè, me ne ha fatto tanti di amma. Vabbè, certo. Dopo ti lascio, che vado un pezzo di televisione, così, un pezzo di filo, non molto. Ciao già, ciao, buonanotte, ciao Luca, buonanotte. Ciao Giù, buonanotte anche a te, dai. Un ascolto se lo fai, se no buona continuazione con le tue passatine. Avanti Giù. Buonanotte, alla prossima, a domani. Ci sentimos. Noi, avanti, Chioda, ci sei. Uno show. Beh, non c'è Finocchietto. Sta facendo dei lavoretti, mi ha detto che se ne stava terminando, se no non è caduto, non è che va bene. Via, le palle. Che tempo oggi, dove schifo, faceva piovendo. Non se ne può più, no, se ne può più. Ma ci abbiamo la vasca intasata, cazzo, noi siamo a far nulla, ci vuole la pompa, non da vivare, no, ci vuole da fare, ma basta da vivare, veramente ci stappa tutto. Siamo capito, perché solitamente sono i capelli che te la fanno intasare, è un po' di olio qui, ma non ce lo puoi vedere. Ah, non te lo fa nulla, la roba lì, già, ma rischi di rompere anche i tubi. Meglio la pompa, secondo me. No, ci ha fatto qualche tappo. Secondo me ci butta tutto nella bandina, no? collegata con la bandina la parte. Beh, la cucina poi passa il bagno, no? Il tubo, tutto collegato lì. Ci collegato il lavandino, vide la vasca. E fa proprio lì, magari il punto dopo magari fa scaricare, si rientra la vasca e lo scarica. Lo butta giù, capito? Alla foglia. E la bandina si deve buttare niente. La mondezza si butta nella mondezza. Io molte volte per buttare la lavandina la butto nel gomolo. Prendo, tiro la catena fino e poi butto il sugo per dire quello che devo buttare, quello che si è attaccato, eccetera, eccetera. Ma infatti, lo dico io. Adesso la compro, l'ho procurata tramite Claudio, va per Stavagnino. Ci passa mio fratello, siccome abita lì a Sorso, ma la sale un attimo, 5 minuti, 10 minuti ci vuole neanche, con una bassa di bomba, per questa volta glielo faccio, poi si allaccia, chiamo l'idraulico, so cosa fa fare, tanto, ma lo comprendi, ci butta tutto già, mamma di caffè, si riprende la poltronita di andare in mano e buttare la pasta quando avanza, no? No, è lavandino, tutto un lavandino. Ma la pasta no, la pasta va buttata, la mondetta, io non la mondetta, quando ce la butto, solitamente non avanzava perché la facciamo giusta e via, e non si spreca nulla. E vabbè, chi è avanti? Come vuole entrare? La misura nel piatto. Quindi quattro piatti, e no, io quattro piatti, voi vedremo com'è. Chi vuole entrare? Devito omosessuale. Ah, sei finocchietto, è bello. Ciao Yucca. Stavo cercando di sovramodulare Gianni, ma non ci riesco. Un po' male ti viene. Già, un casino, buona pompa di costa, 150 euro, mi ha detto poco fa, come si chiama, quello di Stavagnino. Dunque, il favore me lo fa, dai. Così, non sto lì a mettere questi prodotti, ma ci si libera, ma anche sì, come c'è la pompa, la carichi, insomma, devi arrivare, lascia di balla. E quant'è che la paghi? C'è un 30 soldi di più. Aspetta un attimo, quanto è che la paghi? Cosa? La pompa. Ma costa 50 euro. Guarda che a 50 euro le stanno facendo. Perché è il jeep di me che... è un casino, guarda. Poi, sai cos'è già? Il problema è che non puoi usare nulla. La vasca non la puoi usare perché... se si mettono a lavare i piatti, tutta la sedia la vasca, poi non puoi dare nulla, nulla, la sedia del lavandino, l'unica cosa che va bene è il gabinetto, scende bene lì, il resto nulla, si apre la vasca si riesce, cioè come se ci fosse il tappo, capito? Vabbè, se vediamo domani, se riusciamo, se no... Luca! Forgia! Adesso per degli scherzi, guarda che io l'avevo trovata, quella lì ce l'ho qua, e costa 29 euro, l'avevo presa da, anzi 20 euro a dire la verità, da Eurospin, e funziona benissimo, e la carichi, e dopodiché c'è una specie di grilletto, spari e ti tira 3 o 4 atmosfere nelle tue fatture. Allora, vabbè, ma per Stavagnino, quanto? Ma se vuoi te la presto, non c'è problema. Proprio carichi e fa una specie di tum, però devi stare attento perché è talmente potente che ti scassa le tubature. Guarda che devi capire che le tubature di carico, o meglio, di quelle di scarico e quelle di carico d'acqua, una è forzata e quindi è abituata a certe pressioni, l'altra è la tubatura di scarico, devi stare attento perché è collegata a tangente, non è abituata ad avere pressioni forti, capito? Già sono fatte già perlomeno. E c'è un po' di anni questo bagno ho fatto, un bel po' di anni. E vabbè, ci proviamo, tanto non c'è altra alternativa, guarda. L'unica era una pompa, così una bella buffata, ci sarà qualche tappo di pasta, di che cazzo ne so, mamma di caffè. No, la mamma del caffè. caffè, anzi di solito serve per sturarlo, però non è che c'hai, no, hai provato a sturare, anzi a staccare il coso, il sifone? No, ma è proprio da quando tu apri, sì, l'abbiamo staccato, ma è da vasca bloccata, proprio lì praticamente la centrale, ecco, il tubo centrale dove va a scaricare poi alla fogna, capito? È quello lì che è inchiodato. Ma il coso di Niagara l'avete provato? No. E compra un euro di Niagara e gli accazza pure il macchino. Di acido muriatico granulare che serve proprio per sturare i funghi. Tu lo metti a secco, fai bollire una pentola d'acqua calda, dopodiché lo metti questo qua nello scarico e butti l'acqua calda da lontano e ti allontani, e vedi cosa è l'effetto che fa. Vabbè, tu comunque lui mi dice la pompa non lo sbagli, guarda. Vabbè, bisogna vedere, guarda che la pompa bisogna saperla fare. Insomma, la faccio fare, dove è il problema? Bisogna trovare qualcuno disponibile, vedi? No, io adesso lo faccio, anche se sono qua io, ma cazzo, ogni volta gli ho detto non buttare nulla l'altro giorno lo stesso. Perché non buttare niente, ma cosa fa? Prende, stava la pallina, adesso un po' di riso nella pentola, no? Stava sempre quella che era scaricata dal lavandino. Cazzo, tu non buttare nulla, tu butti il riso. Ma quello lì evidentemente è americana tua madre, perché gli americani fanno così, però loro hanno una specie di verità tutto. E loro buttano pochissima mondezza perché hanno i tubi molto più capienti, quindi hanno questa specie di tritatore e tutti i rifiuti li mettono, si chiama tritare rifiuti, e proprio fanno una specie di omogeneizzato, quindi al pari dei tubi, loro hanno gli stessi tubi che hanno in bagno, ce li hanno in cucina, quindi al pari di una cagata. Casino, ci abbiamo una pompa, ci avevamo prestata, ma cazzo, questa pompa ma si è rotta. Cioè praticamente cosa fa? Aspira l'acqua, tiri, no? Aspira l'acqua, poi tu inizi a pompare, c'ha due buchi sopra, e se tu pompi il fondo ti butta l'acqua in faccia, poi si mette lo straccio, un casino, non serve più la pompa, ma no. Prima andava, riuscivamo a come si dice, a liberare i tubi, adesso non più, non fa, non c'è più potenza. Scura. Dici pompate, ti ringrazio per essere un macchino. Ma non ha proprio pressione, capito, dava vuota tu. No, dentro, se tu apri, c'è una specie di guarnizione, no? È quella mangiata, no? Non ce la fa più. Fare quella che c'è tu, va bene, boh, non lo so, e via. Adesso vediamo un po' cosa ci vanno a fare. Io gli ho detto di mettere un Niagara o un idraulico liquido e provare così, perché magari è roba da mangiare e già la sciuglie subito. Ma scusate un attimo, riprendo subito. Ma sai cos'è già? Bisogna adesso non usarlo. Per lavandino niente, non compra questo che stai dicendo tu, questo Niagara, dove lo prendono? Negozi alimentari, anche alla Combes, o Niagara o idraulico liquido. Vabbè, comunque, io sono sicuro che non fanno rifare niente, perché abbiamo provato questa pompa, perché di solito con questa pompa riuscivamo a liberare i tubi, ma questa volta, forse, non lo so, dobbiamo vedere un po', mi ha staccato il coso prima. Una specie di, come si chiama, di ghiera che c'ha, no, la vasca, quello lì, stacchi, quello così che ti viene meglio. Ma adesso così sicuro, la pompa di questa vannino, faccio una bella pulizia. Ma non è che è l'ultima volta che si è rientrato sbronzo e cagato nella vasca, non hai sbagliato? Io adesso quella lì non bicco, poi via. E poi la sbronzo non sono mai rientrato a casa. La barricata, ma non sbronzo. Un gercio. Sì, mamma mia, no, poi io me ne accorgo subito, non mi viene a venire mal di testa, non c'è di più. Poi arrivo a un tutto proprio in blocco. Ma secondo, molte volte capita una bottiglia di birra, sono mal di testa. Ma io per sicuro mangio una pizza, un panino, un sughiè, mi riempio bene lo stomaco di come si chiama? Di bagna e poi beppo. Qualche bottiglietta di birra ce la facciamo, ma su una moto non tocco niente. Già un di no. Posso dire che l'anno scorso ho fatto una strage di chiusa, mamma mia. Dipenda tu, mai faccio una bella mangiata, non so, una bella cena, anche un bel pranzo, no? Un bicchino me lo bevo, ma no, non vado a cercarlo. Capita che me lo compro, ma sai che lo fa buono? Luigi Vulcano, cazzo, lo fa buonissimo il Mirto Rosso. Allora, sappi che dalla sua ricetta io ne ho fatto 72 bottiglie oggi quest'anno. Cazzo, maledio, mamma mia, buono, L'ha regalato una bottiglia un paio d'anni fa. Minchia, l'ho fatto fuori, Io te la regalo anch'io, 6 anni. Sta maturando adesso. Quanto tu, Anto? Quante bottiglie? 72? Chiappa, 72 nel senso che ne ho fatto 36 litri. 36 litri, quindi 72 bottiglie da 50 50. Cosa ne fate di queste bottiglie qua? Mi fate le bif? No, negativo, le regalo agli amici. Ho studiato anche un'etichetta, adesso la devo etichettare, anche io ho studiato un nome. Oddio. No, il Mirto del Grotte, che si chiama 7351. Yeah. No, non sto scherzando. Adesso le devo mandare in stampa perché le voglio fare bene, capito? Kappa. Sono piaciute molto quelle cose che hai fatto con Tiki. Le tazze, ma se non si sono scolorite, no, le avete già lavate. No, no, non le stiamo usando, le abbiamo tutte nella vetrinetta come... Le ho usate una volta solo per fare latte a Marco perché mia moglie aveva messo, vabbè, le tazze da colazione, doveva lavare ancora e quindi ho preso una di quelle e ho fatto il latte a Marco lì, ho fatto e mi ha detto papà non dovevi usarlo, e detto, vabbè una volta non fa nulla. No, ce l'ho in vetrina. No, guarda che le puoi usare tranquillamente. Sono fatte apposta per essere usate come tazze da colazione, cioè non si scolorisce l'immagine. Ti dico, se ti ho chiesto se si era scolorita, perché se si scolorisce la prima volta allora vuol dire che c'è un difetto. Però una volta che non già la. Che poi le avevo già lavate io, le avevo passate il sapone per vedere se avevo fatto la prova, figurati. Ma non si scoloriscono assolutamente. E ma loro le vogliono ottenere. Ma sai Manuela che cosa mi ha regalato a Natale? Mi ha fatto fare un cuscino con tutti grande. Bello, tutto il raso, tutto, ma bello. E male ha fatto, l'avrebbe detto a me, l'avrei fatto io. Le stampo anche quelle cose. E chi lo sapeva? Non lo sapeva. Non lo sapeva, sicuramente se te l'avrebbe detto. Me l'ha comprato, me l'ha fatto, non so dove l'abbia fatto. Molto bello, hanno fatto bene. E gli amanti, ripeto, le faccio. Il problema lo sai che cos'è? Che inizialmente io quando avevo iniziato ad utilizzare questo metodo di stampa non avevo capito che si chiama stampa sublimazione ed è una stampa che va bene per il materiale acrilico e sul cotone invece è pessimo, quindi se stampi il cotone si cancella al primo lavaggio, se invece il materiale acrilico non lo cancelli più. Anzi, mi adesso ti faccio un regalo, dai, te ne faccio un altro paio, ti faccio dei cosi, che ti tessuto. No, però oramai siamo pieni di roba di titi, ricordi, ricordini. Ma non c'era una volta che c'era la poltrona, no? La poltrona in sala. Quella poltrona, non so se l'hai notata, quella poltrona che si praticate tipo i draiali, coricare pure, perché si abbassa. E lì aveva messo, Eliana aveva messo il cuscino con tutti i disegni, accendo la luce, cazzo, per un momento mi sono andato a vedere a Titi, ci credo. È l'abitudine, no, ci credo, guarda, io a mancare a mia madre il cane. Sarebbe più triste che se gli venissi a mancare io. Esagerato. No, adesso scherzo, ci mancherebbe. Però guarda, è talmente affezionata che ci credo, anche, cioè io non ho mai avuto animali in casa, tranne mia sorella, però capisco cosa si perde, hai capito? È bastardo che sia, ti senti lì. E peggio, figurati. Comunque anche tu sei un animale, a partire da ogni animale. Ah, beh, certo. E tu ne hai animali a casa? Sì, che c'è quel cane. Luna. Sì. C'è Ornetta, Morella, ma c'è un calore. Roberto. Ciao, fratti, l'ho detto ultimamente, non so come. E Roberto, era un aria tranquillo. Sto venendo al bar, vicino a casa mia, tanti anni fa. Sta qua la sagata, poi c'è quella voce. Vabbè, niente, Lunetta, il calore abbiamo, in calore. Mi sa che questa volta riusciamo a farla saltare, eh? Oggi ha fatto la Morella, ha fatto la pipì in terra, quindi è contenti. Sto cercando il video di Crotta, l'hanno fischiato al festival di Sanremo, se ne voleva andare. Il figlio di Crotta? Stava scena a tutti. No, perché mi ha chiamato in ritardo e l'aveva già riportato indietro a fare, aspettando. Tanto ogni mio garuetto. Beh, già in fede, se no. Oh. It. No, sto di sera non sto andando. Dove? Sera, non sto andando. No, ci vuole la sera alla porta? No. Non c'è la sera oppure com'è? Un periodo, i primi gennaio e febbraio sono dei mesi un po' di calma. Sono di calma e praticamente avevo da recuperare dei permessi, invece che pagarmeli me li sto dando di sera. Capito, beh. Però siamo in sovrappiù la sera e non ti pesti i piedi uno con l'altro. Invece quando è così, stasera me ne sto a casa, te l'ho chiesto se devo fare anche questa settimana, ma tu sì, fatta, tanto te ne devi recuperare 180 ore qui. Sono del parere, no? Tu minimo sarai uno dei primi lì dentro. Ci sei quanti anni? 30? E adesso 33. Sei uno dei primi, perciò dovresti, cioè l'unico, uno dei pochi che deve rimanere, capito? No, mandarci uno che c'è 30 e passa anni al posto di non so, uno che c'è 10 anni, 15 anni, ma fanno anche 5 anni, dai. Capito. No, ma lo sta facendo non solo con me, sta facendo con molta gente. Sta dando questi permessi che c'erano arretrati e niente, li sto facendo recuperare. Sono 180 ore di permesso, se uno non ha fatto permessi ne ha 180. Immaginati tu. Poi dalle 8 alle 13, giusto? 8.30, 13.30. 8.30? 13.30. Ma giuga lì, 5 ore. Vedi bene, Baro. Non so, già. Guarda che io faccio 4 ore a Nordingros, magazziniere, pare che ne faccio 20, mamma mia. Non si fermava un secondo, Nulla, non c'era neanche tempo di mangiarti una merendina, sempre cavallendi. C'erano giorni, ero di acqua, tira acqua con l'asfalto a mano, portare dentro, vai alla corsia dell'acqua, assistiamo le pedane, uno 20 metri ma giù di raddo, uno via. Già lo sai cosa vuol dire, l'asfalto a mano. c'era anche quello elettronico, a batteria, quello che lo usavo, perché se ero bravo, cioè, ma cavava pure, no? Il buon diploma, no? Lo volevano. Dice che ero solo, potevo solo ad esclusivamente usare quello a mano, non quelli a... quelli elettrici, diciamo. Uno addirittura, uno lo stesso come me, che faceva quelle ore, quattro ore, cattava la padrona all'entrata, minchione, si è seduto, stava rientrando dentro, non si è reso conto che la porta si stava chiudendo e ne ha buttato metà porta, che quelle porte che si chiudono, sai, quando tu parti si apre, poi si chiude. Io non ho capito come aveva fatto a buttarla giù, ma non gli hanno fatto neanche pagare. Via. E vabbè, so cose che succedono quando la vuoi, a me oggi me ne è successa un'altra. Cioè, ma questo era rincoglionito, capito? Si vedeva non sapeva trattare la spalla elettrico. Fanno usare a chi lo sa usare, no? E via, te la giudi là, dove? Siamo pedale di latte, via. Gli attessivi, cosa che c'è? Sali, il pedale di sale, ui. Ma a proposito, l'avete visto quel tir che è uscito fuori strada alla Budi stamattina? No, ora c'era poi, cosa va di carico? Roba di carne, non lo so, roba... c'era il frigo. Capottato? Non ha capottato. È uscito in cunetta, è rimasto praticamente rivolto verso una parte, là. Così, con le ruote dentro la cunetta e dall'altra parte sulla strada. Una prima cosa che sento già, alla testa di dopo. Dopo, diciamo, dove c'è Montinetto, dove c'è quello di Villa Fiorita, c'è anche il Ferrovecchio e subito dopo, per scendere, dopo dove c'è la discesa. E poi vedete, prima, è molto prima di Coso, nell'Arena del Sole. E quella discesa dove ci sono tutte quelle campagne con le salite in alto, là, che non è con le salite lunghe. Chissà come cavolo ha fatto, ma è qualche giovane. Sicuramente. Sì, giovane. Ma c'era molto bagnato stamattina, probabilmente a Gaminendi e ha sbandato. Con quei mezzi, quando sono carichi di roba, non è piano. A me è capitato, quando erano 2 anni fa, stavo accompagnando a Sonia, con la mia amica, Olbia, che ha detto con la sua macchina con mia cognata e io la macchina di lei carica a morte e purtroppo ci devi camellare, ma tu devi vedere come passavano i tir a palla, cazzo, un acquazzone quasi allucinante. Io dovevo correre perché sennò poi non facevamo nel tempo, c'eravamo in ritardo, ma guarda, molte volte avevo anche paura di sorpassare i tir. Guarda, è proprio tira più un babbo, non cazzo la manetta. Tu gli dici così, gambe lenti, ma come fanno, ho capito. E dopo, se ti schizzano l'acqua sul vetro, non vedi più un cacchio. A me mi è capitato una volta che l'ho vista brutta. Mi ha sorpassato questo tir, mi ha buttato l'acqua sul vetro e il tergicristallo non ci ha fatto spannarlo. Me l'ho vista brutta davvero, ma non me l'ha mantenuto la stessa traiettura. Poi rientro con mio fratello, Gesù, c'è una quattrone sempre, senza la piovola di rotto, ma un bel. Se lui a cavellare con questa macchinetta minore da minore, c'è la Peugeot, no? A 206. Ah, di piano, cazzo! Ho detto scusa, noi dobbiamo rientrare. E lui camellando, tutto andare. Come quella che ci abbiamo avuto. 206 Plus. Ma cavolo, già, cioè ho il tempo che era, ma qua credi stava più o meno mai vista quindi è così umbe, non si voleva niente, lui si metteva a correre, fai piano, mica non dobbiamo, cioè dobbiamo rientrare, non stiamo andando a morire, ma fai il caso che ti capita qualche macchina, te ne esci di voce all'improvviso, ma stavo scherzando, poi no, come andare piano lì, quando piove, e lui, e già le gomme sono buone, lasciami guidare, no, ma da piano, baro. Poi si mettono a fumare in macchina, forse io non fumo, ma con rispetto per quello. Io in macchina mia molte volte ho dovuto dire che non si fumava in macchina e non hanno fumato, perché in macchina mia siete bambini e cose, loro non fumano, ragazzi, quindi mia moglie lo stesso, e quando entrano se c'è odore di fumo subito cominciano a dire cose, quindi preferisco evitare. Ma io non sono d'accordo, chi è che vuole entrare avanti? Ciao ragazzi, ciao. Ciao Fabio, hai sentito? Ti vedo confuso, cosa c'è? Cosa c'è? Niente, stavo pensando ad altre cose. Ciao Franco, ma Tommaso ti sento, Cosa, Massimo si sente? Eh sì. Sì, sto parlando io, piano. Santiago 1, sì. Santiago, no, sei tu due allora che c'è qualcosa. Qua è 9.25, Tanto Franco, è l'ora 10. Certo, se conosca se ne posso passare da Santiago 1, vuol dire che sono negativa per me, già. No, scusami, lui è 9.5, non 9.25, 9.25 è il 2. Io lo sento molto bene a Franco, forse è negativo per te. Forse c'hai, si può dire, di fronte, tu lo prendi da tutti e quattro i lati. Già, io lo so dove abitano. Comunque già riesco a tirarlo fuori, non c'è problema. Io non ho nessun problema. Il problema è il, diciamo, la, come si chiama? Ma la posizione dove sto. Dipende dai posti, quindi tu arrivi meglio a Roberto Quadrato, arrivi meglio a quello, all'altro, che io, vabbè, non è che arrivi male, però arrivo più basso. Infatti è un problema di posizione, comunque già va bene, dai. Lui sente a me, lo sento a lui, ripeto, lo sento basso, ma comunque riesco a tirarlo fuori, avanti fra. No, non è quello il problema è quando non ci sentiamo per niente. No, ma io ho sempre stato benissimo, sempre bene. E io invece a Franco lo sento l'alternato. Davvero, l'alternato ci vuole. Sì, io sono in cuffia e recepisco proprio questo rumore di alternato. Io voglio assaggiare il metodo che ha fatto Grotte, sono curioso qua. Ma se l'ha fatto con la ricetta di Gigi sicuramente è buono. Poi dicono che lui girava a cazzo, uno spettacolo buono, buono, buono. Guarda, credi, meglio di quello che dei Pias. Sarà, era buonissimo, gustoso, veramente buono. Buono, infatti ti do a volte se me lo faccio, ma tu comprami l'alcol e te lo faccio. No, mi barghi, volevo tu va, è buono, quello te lo bevi un cicchettino, dopo mangiato, uno però è buono. Tu non hai assaggiato lo zinzaro, quello che fa lo zio di mia moglie? No, zinzaro. Zinzaro, non so che cosa è fatto. È fatto, hai visto quelle palme nane sarde? Quello lì fanno quella specie di dattili rotondi, è fatto con quello lì. Qui si abbagliano sempre con questo procedimento, nell'alcol c'è il fatto di cuore. Qui, però te l'ha assaggiato, fatelo dire come. Non lo so, non l'ho mai assaggiato. Sono sincero. No, ma è il mirto dei pilas, non attira, no? È troppo forte. Come ci vuole fatta in casa, è totalmente diverso. Mi hanno regalato lo stesso, una bottiglia a me, uno che stava lavorando con noi al comune, l'anno scorso sto qua. No, no, sì, vabbè, 2011, dicembre 2011. E questo misto era forte, sì, però rimaneva cremoso. Era così così, era bevibile, ma comunque non era questo granché. Poi mi ha regalato una bottiglia, gliela chiesta a lui, questo mio collega, lo stesso, a questo tipo che lui lo fa il mirto, no? Dice che ne ha tante bottiglie a casa, ma erano di tanti anni fa, eh. Vabbè, ci siamo bevuti, quella bottiglia mia e la bottiglia sua. Forse era troppo denso, no? Troppo rimaneva denso. Si conferma. Infatti non capovolgerlo, lo metterlo così, poi una volta che arrivi alla fine lo butti quello che rimane sotto. Che voleva scolare. Ma comunque c'era, insomma, così. La voce di Luigi è buono, no? Non posso dire diversamente, ma fa veramente buono. Io non l'ho mai assaggiato quello, non posso dire. Il vino già l'ho bevuto da lui, ma il mirto... C'è una tifra. Sì, capo. Ma come già la settanta? Sempre, prova a premere la portante senza parlare. E a vuderci. Una cosa così, no, sei più forte di tutto per radio, ma diciamo che la sento perché ho le cuffie. C'è un problema di massa. Sì, probabilmente. oggi mi avrei fatto i traviti lì a Francia, c'è del Piero, che c'erano i figli che si toccavano e li erano tutti rizzati. Certo, probabilmente di un figlio di massa. Ecco, bisogna provarci, sì. Finita le caramelle. Luca, ma nemmeno se mette con la portante non senti il rumore. No, no, sì, vabbè, diciamo che è di, sente il rumore si fa a fondo, no? Del QRM, facciamo allora, da me non avevo quel rumore che dicevi tu. Poi se mai si mettevo le cuffie magari sì. Ma no, non penso neanche, perché il QRM, sente il rumore del QRM. No, Luca. Non è QRM. Io il rumore di alternata lo conosco, è un rumore di alternata, fa ma da me non si sente, perché lui è sotto, cioè a me dà il rumore del QRM, capito? Ormai gli occupa quello, non so. Tecnico questo qua, che sono i microfoni amplificati che lo fanno partire con un attore. Non lo so, questo guarda, era prima di averlo io, ce l'avevo un altro mio amico, ce l'avevo questo qua, il sorso, che aveva 10 anni modulato, e adesso non ce l'ho lì, ce l'ho io, ce l'ho pochi mesi, ce l'ho. Eppure ieri facendo baracchino mattina verso le 9:30 e che fischio alle 5 e poi si è sentito Luigi che stava parlando e inizia a fischiare questo microfono, cazzo, ne aveva gli scillucci già praticamente l'avevo toccato. La retina che c'è davanti, no? Se lo tocco questo qua adesso innesca. Questo lo devo smontare tutto. E rimettere bene il cotone dietro. Perché fa un contatto con la retina. Infatti non riuscivo a metterlo a posto, no? Ma me l'ha fatto scillucci qua. Ho dovuto tirare la capsula, portarla un po' fuori, poi mano a mano rimandarla di nuovo dentro piano piano. E sono riuscito a levarne il fischio, ne scava tutto andare, passa da smontare e gli metto un filo schermato, vediamo un po' cosa me lo fa. Frank, tu l'hai visto già, 245 250, c'è una signorina ogni tanto è. C'era la fine di Vittorio. Ah, non penso. Non ho fatto il tempo a sentire cosa stava dicendo. Ma se? Adesso. Ah. Oh, non lo so, non ce l'ho acceso, dice Vittorio. Ecco. Non ho fatto il tempo a sentire cosa stava dicendo. È tipo quello che usciva dall'orario. potrebbe essere qualche apparato che era così registrato, quegli apparati di forza. Ma questo a quest'ora, invece era questa voce, però è quasi finita quando ho sollevato il volume. Perché la frequenza monitor non c'è più, l'hanno cambiata, perché non sono sentito più nessuno. No, là non c'è più nessuno, sono tutti qua adesso. Stasera stavano parlando qua. Dove? A 145, 250. Ehi, aspetta un secondo solo. Non c'è più nessuno lì. Non lo so perché non c'è più nessuno. Io adesso mi sembra stavano parlando. Ma tu sei da Matteo, sì? Sì, io. Vabbè, mi è rimasto solo questo qua di baracchino. C'era bene un altro piccolino, ma quello si attacco quello, manco a balla mi senti, da un watt. Adesso che ti davo un watt non puoi andare. Certo, l'aria ma tu, in mezzo a mezzo ci dirai, lascia perdere. Lascia perdere. Serve solo per coprirti le spalle e la parte. Infatti è quello. Luna. Cazzo, non andrò mio. Madonna santa, sta sempre. Sempre cercando di fare qualcosa con sto cane. Mamma mia, qua. Poi molte volte si alza alle tre e passeggia con quelli umidi. Mamma mia che fastidio qua. A che piano sì? No, vabbè. Piano terra, no? Ma io dico il cane mio in cameretta, no? Dorme con me in cameretta, in terra, ovvio, no? Non a tavolito. E io ti ho capito che dorme in terra. Ho capito, ma io ti ho detto che a che piano sì, in modo che se sei fortunato quel cane che apri la piano terra. E abbiamo terra. Sì, infatti è fortunato. Un po' bacia due stagionali, se non è riuscito a farli metti è buono, se no no. Infatti, mi avete a dire. Allora, adesso è ora. E se non bacia, poi bisogna smettersi per la coppia e si copre bene. Che sembra. È un cane avvicinato, va. Io anche la parola, sei anche in calore. Mamma mia. Prova che si porca poco. Un attimino, là. Io vi saluto e faccio un correttivo. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Devo chiedere che il tempo si sta, diciamo, stringendo per andare a dormire. Ciao, ciao. Bravo. Ciao Gianni, buonanotte con tutto. E buonanotte a domani se devi andare. Grazie, grazie. Ciao, già, buonanotte. Ci sentiamo domani. Aspetta 5 minuti, senta la grotta, lo saluto così anch'io, spengo perché non oggi più piano. Nine, era al computer, mi guardo un po' di TV e poi chiudo. Ecco. Consenti me, a me me l'hanno portato stasera. Ma non è un granché. Fra, me ne ho regalato uno. Nuovo, perché è nuovo, un colotto smontato, pulito, una scheda ora fatta mille un pezzo, la pulita, la vetra, tutto, è un 17 pollici, 17.3, un Acer, non accende, no, non accende, dicono che è il processore, ma poco vi credo, siccome è partita la scheda madre, è nuovo, nuovo qua, peccato. Quelli partono perché scaldano troppo, scaldano. Io l'altro giorno ne ho provato uno, ne ho provato, però come ho preso in mano, fissura, stava bollendo, stava. Non faceva tenerlo in mano, giusto, gli alluminio si fascia. Infatti quando l'ho smontato, dove faccio la ventola, non faccio il dissipatore. Qui c'era praticamente davanti, frontale, dove c'era tipo, non so come viene chiamata, vabbè, la griglietta comunque sia, no? C'era un po' di polvere, ecco. Ma sempre quello, ma non riusciva, quando lo usava non riusciva a dissipare bene e gli ha fottuto la scheda madre. Comunque dice il tecnico, siccome avevamo scritto dalla Germania, no? Il tecnico dice che c'era il coso, il processore, ma poco vi credo. Io ci posso anche sprecare 30 euro, ma non penso che sia quello. Quelli lì. E purtroppo fatto solo. Se uno, cioè, ogni tanto deve portare, fare, magari quello lì lo usava anche in polsi che c'era un pochettino di polvere, cose così, che non l'ho mai pulito, capito? No, allora, praticamente lo stavo usando, così mi hanno detto, sai, adesso, no, tipo mezzanotte, tipo il mio lo spengo, così ha fatto questa qua la sorella di questa mia amica, l'ha appoggiato, mi domani va l'accendo, non accendeva più. Buonasera. Può darsi che abbia preso qualche colpettino, qualcosa, oppure gli sia andato in corto qualcosa. Cosa, adesso io l'ho smontato, non ho visto niente di anomalo, nulla, zero completamento, l'ho fatto a tutto, non mi da un pezzo, ho staccato il monitor, tutti i fili, nulla. Sono tutto pulito veramente bene qua, nulla, non andà. Adesso non so. Stavo cercando su internet qualche scheda madre, ma non ne ho trovato. Anzi, ne ho trovato una, ma dimmi tu, adesso questo scemo ha messo una scheda uguale a questo PC che ho io. Adesso meno male che io la stavo comprando. Dopo, ho aperto sì o no quel link 3-4 volte. La quarta volta l'ho aperto, ho letto bene che c'era scritto scheda acqua rotta. Meno male, se non mi preso quella scheda che era rotta, siamo lì quasi, nuda, meno male, guarda. Questo cercando, ma non ne trovo uno magari così, anche 150 euro, tutto graffiato, non mi interessa, ma anche che abbia il monitor rotto, non mi interessa, uso quello, c'è sempre una scheda madre di quello, ce la sbatto sotto, e sono sicuro che funziona, 100%. Ma c'è a palla, infatti. Ma tu non sai, io adesso ho fatto un computer, io ho un computer, ne ho comprato uno solo, che ne avevo comprato. Ma un modello vecchio proprio, quello delle vecchie. Ma non sai, il mio computer poi non ne ho comprato più. Quando mi cambiavano giro al lavoro, mi cambiavano. Ogni tanto ne facevo sparire un po', e facevo sparire e mi aggiustavo quando partiva qualcosa. E lui si bisogna fare con i fissi, ma non male, riesce a rimediare il pezzo, ma con i portatili è un po' difficile, capito? Ma sono un peccato, ma quando me l'ha spedito, beh, poi l'ho aperto, no, non ci credo. Allora, l'unica cosa che ha fatto il tecnico giù, cosa ha fatto? Figlio di buona mamma, siccome la tipa non ne capisce niente di computer, no? Cioè sapeva usare, sì, ma mica sa che gli toccavano i pezzi da dentro. Cosa ha fatto? Lei voleva le foto, che riservasse le foto il tipo, no? Tecnico. E ha salvate. Cosa ha fatto questo bastardo? Ha preso e ha dato un hard disk rotto. E loro non è che provato l'hanno, perché non lo sanno come fare a provarlo, perché il PC l'ha rotto. Tanto avrà pensato, non lo può provare perché tanto non lo mettono, mica aprono un altro computer per provarlo. Comunque niente, gli ha dato il rischio rotto, infatti quella tipa me l'ha spedito, non fa. Cioè parte, però non lo legge. Non lo legge, bastardo nel vecchio. Quelli sono. Lui ha cambiato l'hard disk. Infatti, mi piace come hai detto tu. Però intanto non ci capisce niente, non lo possono accendere, non lo possono neanche provare. Secondo tu forse. Magari lo buttano via anche così. È stato disonesto, cioè. A me gli piace a fa, perché se me l'hai ricuto a capo. Quindi qui gli a capo subito. Che ha fermato il bar e più forse che sai cos'è a casa lì ho portato il portatile di mio figlio, ce l'ho portato, no? E questo tipo mi ha detto, dice, c'era la batteria, dice sì, e la batteria anche il caricatore, ma io ho fatto strano. Vabbè, io ho andato tutto qua, quando sono andato a vedere se era a posto il computer, dice sì, sono andato sul mio computer e non la batteria e muore la caricatura. Io la pensavo che per la batteria. No, quella non me l'ha data lì, quella non te l'ha data. Una polizia mi chiamato, la prima del cuore. Sì, è basta, ragazzi, insomma. No, beh, questo gli ha dato tutto, il metatore, c'era anche la RAM dentro, attaccata, pensavo gli avesse fregato anche la RAM, pensavo, tanto avrà detto, non li comprendi nuda, ma c'è la RAM, c'è 4 giga di RAM, è il disco che si è preso, bastardo, da 320, quello costa una settantina di euro, 60-70 euro, figlio di buona mamma, ragazzi, ma se ne avviano i fasciati, la Dugis si è fasciato. Io l'ho aperto ma non parte, cioè parte ma non legge, capito? Maledetto, ce ne sono pochi onesti, pochi niente, va. Guarda, probabilmente è così di meno quella disco, perché sono da 320, 320, ma la disco in esterno, da una disco normale, la differenza c'è, cioè, di costo. No, ti spiego. Quella disco lì volendo ti compri la custodia, cioè il coso, no? Una specie di porta a dischi, no? Lo so che usa esterno anche. Infatti io ce l'ho, l'ho inserito lì, non va. Mamma mia, va. Comunque gli ho messo ne ho uno in più io. Gli ho messo il mio, ma non parte lo stesso, cioè non accende il computer. La disc funziona, però il PC non parte. Cazzo, me ne duole il cuore, ma è un peccato, ma si riesce a fare un baffi guai, perché c'è un bel monitor grande, a voglia. E poi, vabbè, il sistema operativo è già in italiano. Devo cambiare la tastiera, perché questa qua è tedesca. Anche volendo uso quella, ma comunque la compro in italiano la tastiera. Adesso vediamo un po' cosa riesco a fare, perché se non li cavo bene lo faccio a pezzi e me lo vado a pezzi. Beh, sono la mia idea, cazzo, c'è un peccato, è un vero peccato che un computer del genere, cazzo, io mi sono accorto il mio, quanto che sono 17 pollici alla mano del fisso, quello sempre piatto, no? Lo schermo piatto. È un bel monitor quello lì. No, sopra mi hanno regalato un monitor da 15 per formattare quelli fissi, no? Vabbè, una mia amica me l'ha regalato quello. Poi ne ho un altro, lo stesso compact, quello guarda al secondo piano, quello funziona, ho già provato di tutto. Però c'è i tastini del touchpad rotti. C'è il tasto sinistro, il tasto destro, poi c'è uno centrale lo stesso, sono spaccati all'interno, non fanno più contatto quelli. E sono quattro piedini, solo perché per saldare quelli è un casino, non fa. Perciò bisogna usare il mouse, a me tanto che un mouse poco mi piace. Oh, a meno che mi faccio uno spazio, metterò su qualche mobile. Ma non comunque siano, lo lascio così, ma chi se mai rischio di rovinarlo di più. Però dico, cazzo, volato da secondo piano, la disco non si è fatto un cazzo, nulla, zero, non si è fatto niente. 4 giga di RAM, allora si è rotto un po' il fianco, è volato qualche tastino, e più il monitor, che l'ho già staccato e buttato. Non funziona, perché uso quello esterno il monitor. Ehi, cazzo, sì, lo puoi fare così, perché io ne ho uno, portato uno, che il monitor non mi va, quello il monitor normale funziona. Ma tanto cosa, tutto il tempo besso, va. Non ci più gana, poi non c'è spazio qua per farti, lui. Adesso vedo ancora un po', se riesco, se no... Se due lì però mi metto su internet e mi vado a pezzi, la pesa mi ha fuggito. Mi tengo l'alimentatore, tanto l'alimentatore va bene al mio. La RAM me la tengo io e vendo il monitor, pure la scheda madre gliela lascio dentro. Tutti i pezzi che ci sono, ventola, processore, blu. Ma ricordo comunque che siano processori, mi sembra troppo strano, sto macinando, blu. Ma io dico, queste schede madre non hanno un fusibile dentro. Mi sembra che ce l'hanno uno. Uno, mi sembra che ce l'hanno, però non lo so, non lo so sicuro. C'hanno un altro tipo di protezione, ci hanno, probabilmente. Però di fusibile non sono sicuro. Ma io l'ho aperto questo mio, l'ho aperto, però non mi ricordo se c'era o non c'era. Vabbè, non dico un fusibile grande quante quelli che trovo, posso dire, su un digitale terrestre, ma presumo che sia un fusibile piccolino, che ci vuole una lente. Ma bisogna vedere quale. Cazzo, va veramente, a me se uscire veramente lo debito, faccio il computer. Sono pure sempre mazzinelli, tanto quale che io lo apro, tanto non, sulla scheda non ci so lavorare, è inutile. Se da pulire ok, ma lavorare tecnicamente no. Cioè se da formattare, riesco a farlo, quello sì. Se c'è da cambiare un qualsiasi pezzo lo cambio, non faccio problemi. C'è anche è nuovo, cioè tu devi vedere, il lettore di DVD non è stato mai usato, anzi è stato usato una volta per fare dischi di ripristino, è nuovo, nuovo, nuovo. Sì, chiaro, perché invece non conosci nessuno che te la pure questa sera, questa sera a marzo, a vedere se funziona, che tanto se non funziona non arriva neanche corrente. E bisogna spedire, bisogna vedere quanto ti prendono. Comunque c'è un, non so, forse in Germania sono, che le riparano queste schede madre, ma io poco vi credo. Uno sa di stesso, qualcuno, c'è questo uno che, non sembra che ne conosce qualcuno che fa questi lavori. Stavo pensando dalla Vittorio Giove, ma devi fargli dare un'occhiata. Vittorio Giove mi sembra di fare quel lavoro qua. E io vado, volevo un po' un autogiffo per aggiustarlo. Allora, magari per controllartela, magari te la controlla così, te la controlla. Oppure se ti prendi 10-15 euro non sono meno la fine del mondo. Ah, no, vabbè, ci posso anche giocare 50. 50, boh, poi vediamo. A testa me la piazzo io, non so io. Ci vuole il diploma, no? Smontare, gliela smonto io, gliela porto, gli porto l'alimentatore, così lui vede se l'alimentazione arriva. Perché il tastino non può essere, il tastino fa tic-tac, tic-tac. Boh, magari si anche da quello, chi lo sa. Non lo so, c'è un tastino d'accensione e poi all'altro fianco c'è un tastino P, non so cosa significa. Ehi, cazzo. È sulla. Che bello deve essere. Si è montato la corrente, è montato. Ti aspettiamo. Quindi vabbè, bisogna fare il bene del lavoro di qui, però. Quanto parliamo, quanto se lo spingi serve a più successo, che spingi di più di fatto controllare qua. Infatti, gli hanno chiesto 400 euro, pensa tu, ho spedito all'Acer. Boh, ma allora vediamo, ma neanche nel video ho messo, vabbè, ho chiuso in casso, ho trattato tutto. Filettini, allora vediamo, gloria al tempo, ma che ne sono fatte? No, adesso non ti sento più, è salvato questo problema, ma tu non è. Il problema non è adesso. Qua c'è un problema, è la nuova, giuro. Ma su, usare neanche mezzanotte e mezzo, sennò qua non entra mia mano, un casino, dai. A domani, fra, buonanotte. Signora, sì, vengo qua, sta solo ancora, deve essere, sta cominciando a piovere qua. Vabbè, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.